Vedere di recuperare il minuto che lui ha preso. Si prepari il dottor Bleggino per la relazione Baldino per la relazione di Simon. Ok, grazie. Intanto chiedo scusa per il leggero ritardo che sono intervenuto. Poi volevo dire e ringraziare, un saluto al tavolo della presidenza, e volevo ringraziare Rosina Partelli per la sua relazione che ha toccato veramente tutti i punti centrali. Tra l'altro ci sono anche due punti o tre punti che sono da spunto a quello che, che è la mia riflessione. Questa riflessione è data ovviamente, non è un discorso politico che farò ovviamente in questa assise così importante, penso lascio il ruolo alle persone competenti. Io sono appena rientrato nella federazione e quindi io porto il mio modesto contributo con umiltà, che è un mio contributo ma nello stesso tempo anche un contributo e un pensiero anche a tutti gli amici corsisti comunque che hanno fatto i corsi con me. Sono Michele Mango e appartengo alla RLS di Orbassano di Torino Canavese, dove mi occupo di accoglienza e anche di collaboratore dell'INAS. L'appuntamento del congresso è sempre emozionante e propositivo, poiché si fa la verifica della situazione politica, sindacale ed economica dopo 4 anni di intenso lavoro e da cui si riparte per correggere e migliorare gli obiettivi della federazione di appartenenza e della CISL. Noi tutti siamo consapevoli di essere ancorati, e l'abbiamo detto quasi tutti, ai valori e alle radici fondanti della CISL, un sindacato libero da condizionamenti politici ed avendo nel proprio DNA una cultura attenta alla solidarietà che ha caratterizzato la sua lunga storia. Questi valori mi convinsero ad intraprendere nel lontano 1975 un lungo cammino come militante, dove ho cercato continuamente di trasferirli e metterli in campo, questi valori, e in atto tra i lavoratori nelle varie sedi dove io ho partecipato e ho fatto l'attivista sindacale. Continuo il percorso nella FNP, ancora con entusiasmo, cercando di migliorarmi e partecipando ai vari corsi formativi. Ho partecipato quindi, come dicevo, insieme a tanti amici che sono anche all'interno di questa sala, al corso di formazione di Varazze per la futura dirigenza RLS, al corso di formazione promosso dall'OSC ed USR per la zona, della zona sindacale territoriale di Moncalieri e Orbassano. La formazione sindacale ricevuta è stata molto stimolante e propedeutica al percorso per l'arricchimento e l'aggiornamento delle conoscenze e competenze da mettere in campo quotidianamente per le nostre attività di supporto ai servizi in sede e specialmente sul territorio. Oggi la società moderna è globalizzata ed in continuo movimento e cambiamento. Ha ridotto le tutele dei lavoratori ed anche dei pensionati, evidenziando purtroppo una sperequazione della distribuzione del reddito e di conseguenza assistiamo ad un aumento delle diseguaglianze. Quindi occorre una nuova cultura consapevole, libera e critica per il rafforzamento delle nostre radici attraverso un ulteriore slancio di idee e di azioni proporzionali ai nuovi bisogni per far fronte alle nuove sfide sempre più complesse che ci riserva il futuro e per recuperare con tenacia la credibilità sindacale che è sempre stata per noi la stella polare. Occorre la presenza costante sul territorio con iniziative tra la gente, le associazioni e il tessuto sociale per rilanciare i valori CISL per un nuovo rinascimento, come il nostro titolo di questo congresso, e per rilanciare il proselitismo da cui arriva la linfa vitale per questa organizzazione. Penso che alla luce di una serie di fattori concomitanti, l'ha spiegato nella relazione la segretaria Rosina Partelli, il sindacato purtroppo ha perso iscritti, lo citava anche quello della CGIL, quindi il sindacato in generale, e quindi ahimè dai dati che ho verificato nella mia cartellina che ha dato appunto conferma a quanto si diceva e si verificava nelle sedi. Quindi non è più pensabile assolutamente di vivere di rendita. Bisogna fare un'attenta riflessione per rilanciare la FNP con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Occorre un coordinamento costante delle zone per lo scambio di dati e di iniziative incisive rivolte alle persone, bisogna continuare con coraggio, e quindi io mi rivolgo alla segreteria, con coraggio ad inserire negli organismi politici, come è successo fino adesso, ma con maggior forza e con maggior consistenza, quindi negli organismi politici nuove leve individuate nel famoso vivaio CISL, che effettivamente è abbastanza pieno e quindi, ed è anche prolifico, che possiamo e che possano dare appunto queste nuove leve un grande slancio con nuove idee e nuovo entusiasmo. Bisogna insistere sull'aggiornamento continuo per i volontari, che sono le prime antenne sociali che quotidianamente stanno nelle zone a contatto diretto con gli utenti, ai quali viene offerto la propria disponibilità e preparazione al fine di dare un servizio sempre più competente e qualificato. Credo, e chiudo, che questa FNP CISL abbia ottime credenziali politiche ed umane per produrre un grande ed innovativo slancio politico e culturale, per ricucire il rapporto sociale che si è lacerato in questi dolorosi anni di crisi economica. La nostra missione tra la gente deve continuare con determinazione per far tornare grande la FNP e la CISL, come un faro che illumina il percorso da seguire con saggezza ed umiltà per andare lontano, tenendo per mano le persone che si fidano di noi e quelle che riusciamo a convincere di fidarsi di noi. Viva la FNP, viva la CISL!